Siamo ancora al telefono con un compagno di Marino che ci vuole ricordare un altro episodio sempre legato alle tematiche che stiamo trattando in questo momento. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno a tutti. Ciao. Senti, e niente, ho sentito prima la corrispondenza della compagna di Milano che ricordava come denso di impegni, insomma, di iniziative questo fine settimana, ricordo di Dax ucciso dai fascisti 11 anni fa, e delle invece iniziative provocatorie messe in campo dalle varie formazioni di destra neofasciste in concomitanza con questa data. Bene, oggi è il 15 marzo e 4 anni fa scattava a Tor Vergata la prima delle due giornate di aggressioni che i fascisti di Casa Pound e Blocco Studentesco, guidati da Andrea Antonini, vicepresidente di Casa Pound, e che, ecco il collegamento con oggi, adesso presenta tramite Casa Pound i camerati di Alba Dorata a Milano, proprio lui, 4 anni fa scattò questa pesante rappresaglia, questa pesante aggressione a Tor Vergata nei confronti dei compagni e delle compagne antifasciste dell'università, e provocando 6 feriti, quasi tutti gravi, quasi tutti in codice giallo, praticamente aggredendo sia ragazzi che ragazze, non facendo nessunissima distinzione. Ed era guidata proprio quell'aggressione del 15 marzo all'interno della facoltà di giurisprudenza dal cosiddetto, appunto, vicepresidente di Casa Pound, cioè da Andrea Antonini. Questo soggetto, che all'epoca aveva quasi 40 anni, guidava poi anche insieme addirittura a Iannone, quindi il leader indiscusso di Casa Pound, l'aggressione avvenuta il giorno dopo, quando tutti quanti andammo a protestare. Era in corso un senato accademico e ci fu impedito di partecipare, di avvicinarsi, solamente perché la Questura di Roma, insieme con un centinaio di neofascisti, il secondo giorno aggredì nuovamente i compagni intervenuti non solo da Tor Vergata, ma anche da altre università, dalla Sapienza e da Roma 3. Vennero i compagni a esprimere solidarietà nei nostri confronti con la loro presenza. Furono aggrediti al parcheggio esterno di giurisprudenza da questo centinaio di energumeni di tutto punto muniti, e insieme con la Digos di Roma, che coordinò le operazioni, si può dire, fermando anche dei compagni. 9 compagni furono fermati, e attualmente, dopo 4 anni, ecco qui la novità, e siamo sotto processo. Sotto processo, per il primo giorno ci sono finiti i fascisti, quindi è stata riconosciuta l'aggressione, ma siamo dovuti passare per le forche caudine, perché un mese dopo quella giornata di aggressione fummo arrestati anche noi, perché si parlò di rissa, e Tescaroli istruì PM, insomma, che è in mano questo procedimento, istituì la cosa e la fece passare come rissa. Invece poi si dovette ricredere, e il primo giorno fu un'aggressione, e quindi il processo, che inizierà dopo due rinvii, dovrebbe cominciare a maggio. Per il primo giorno è di aggressione, e quindi i fascisti sono imputati, tra cui lo stesso Antonini. Per il secondo giorno invece, purtroppo, i compagni che furono lì per lì fermati hanno, appunto, rissa e reati connessi alla rissa con i fascisti, che pure loro sono stati denunciati. E brevissimamente volevo ricordare che Antonini non è solo il vicepresidente di Casa Pound, ma lo stesso Tescaroli, lo stesso PM Tescaroli, che inquisisce tanti compagni, a volte capita di passaggio qualche camerata, già nel 2008 sapeva, perché adesso è rinviato a giudizio Antonini, sapeva che Antonini aveva fatto da sponda per consentire l'espatrio di un noto criminale dei catalesi, un boss ricercato tra i primi centri in Italia, un certo Santafede, perché all'epoca Antonini era consigliere municipale sulla Gassia al 20° municipio per la destra, e poi subentrato come Casa Pound, e va bene. E quindi all'epoca Antonini gestiva questi collegamenti con i catalesi, e Tescaroli già nel 2008 lo sapeva, l'ha inquisito nel 2000, mi pare nel 2011, quindi dopo i fatti di Tor Vergata. E Antonini è tuttora rinviato a giudizio per un procedimento molto pesante, che lega ancora una volta i fascisti, in questo caso di Casa Pound, alla criminalità organizzata della peggior specie, perché stiamo a parlare, insomma, della Camorra. E lui all'epoca fece un falso riconoscimento, consentendo di ottenere un documento falso a questo boss della Camorra. Quindi invito pure i compagni milanesi, che forse già lo sapranno chi è questo soggetto, visto che andranno in piazza a contestare questa iniziativa, a far presente gli espliciti collegamenti che ci sono tra la destra romana e la criminalità. Sì, ma qualcosa sulla stampa infatti è uscito in questi giorni rispetto a queste ultime cose che stai dicendo. Spero che sia, cioè non so la stampa milanese come sta trattando questo evento, però andare a vedere gli Antonini è importante perché ne segue il collegamento che fu anche gambizzato, se adesso ricordarsi stanno venendo in mente tutte le cose, fu gambizzato mi pare pure nel 2011, un anno dopo l'aggressione ai nostri confronti, si parlò di terrorismo rosso in zona Balduina appena usciva dal Consiglio Comunale, tutti a lamentarsi questo terrorismo rosso alemanno, pure il PD con Foschi, mi ricordo, giornalisti di Repubblica, no, che chiamavano. Invece probabilmente al stesso dico si sta all'epoca, guarda, non c'entrano niente i compagni, ma c'hanno storie loro, e quelle storie loro sono uscite pochi mesi dopo perché fu inquisito e rinviato a giudizio da Escaroli, e probabilmente è nell'ambito della criminalità organizzata che questo soggetto sguazza. Questo soggetto appunto è molto pericoloso perché ha questi contatti e insomma è da trattare con le dovute maniere questa situazione, perché va rimarcato che i fascisti non sono solo, capito, insomma nazionalisti patrioti che si battono un'Italia diversa dal nostro, no, questi sono proprio degli infami che vanno in giro in tutto il mondo a cercare collegamenti con le peggiori situazioni politiche negli altri paesi, e in più nel nostro gestiscono questi contatti. D'accordo. Va bene, questo volevo dire per fare il quadro della situazione. Ti ringrazio, ciao.